la corsa rompe dei globuli rossi tutte le volte che noi corriamo, qualunque tipo di sport che comporti un impatto con il terreno, anche, non so, pallavolo piuttosto che tennis o altro, comporta una rottura di globuli, e quindi anche qui una perdita di ferro che va recuperata. A parte la rottura di globuli, che detta così suona male. Noi abbiamo reso Mazzone un uomo migliore, giusto? Sì. Con le proteine. Lei ci faccia spendere poco, su. Anche cercare le offerte, no? Fa parte di fare un po' di attività sportiva, anche quella. Almeno della mente. Settimana lo vedo sempre più bello. Ma è la tua presenza. Ma ci innamoreremo di questo Luciano Mazzone. Spiegaci bene cosa significa essere una forager, mi sembra un po' Kassinger. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, l'hai provocato, io me ne mangio. Cuore e denari Expo. Eccoci qua, pronti per una nuova appassionante puntata di Cuore Denari Expo. Fermatevi con noi se state accarezzando l'idea di diventare vegetariani, vegani, o se state riducendo progressivamente il consumo di proteine animali e volete avere indicazioni per evitare carenze ma anche eccessi. Restate con noi se siete, come diceva Nicoletta, vegetariani o vegani, se siete in procinto di fare questa scelta, o se non lo siete, restate per conoscere la differenza fra queste due scelte. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. Noi intanto, perché già ridi, partiamo. Prima di presentarvi due coach che seguiranno il nostro candidato, sentiamo il nostro dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, direttore scientifico di Eurosalus, la piattaforma che ospita i nostri questionari, che oggi non è qui con noi ma ci ha comunque dato il solito polso della situazione su che tipi di vegetariani ci sono e sentono e hanno partecipato all'iniziativa di Cuore Denari. Il tema è interessante. Intanto torniamo ad una prevalenza di donne, ha una prevalenza del 71% di donne, ha una prevalenza tendenzialmente di persone sono con un'età più giovane, più giovanile dei ovviamente degli over 50, comunque l'età media è circa intorno tra i 40 e i 43 anni, sono persone che camminano, sono attive e devo dire anche con una buona presenza di automisurazione, soprattutto il contapassi la fa francamente alla grande. Devo dire, sto leggendo e riverificando i dati che mi ha fornito Andrea Giordano, che contribuisce sempre a darci queste indicazioni, e le cose interessanti sono soprattutto sulle motivazioni. Cioè, dai questionari è emerso che l'86% dei vegetariani in realtà fa questo tipo di scelta per una motivazione di tipo etica. Tendenzialmente è un dato il rispetto fondamentalmente dell'animale, ma è molto molto interessante soprattutto in funzione della valutazione rispetto ad Expo, che un 57% sono coloro che ritengono fondamentalmente che le risorse ambientali ed economiche usate per produrre carne possano essere utilizzate per produrre più cibo in generale e forse in modo migliore. Una ultima notazione direi sulla dislocazione di scelte all'interno del vegetarianesimo: abbiamo diverse modalità operative, 14% sono vegani puri, assoluti, nessun derivato animale, un 14% sono vegani che io definirei morbidi, ad esempio accettano il miele, e un 43% delle persone che ha risposto invece che utilizza anche latte, latticini e uova all'interno della propria alimentazione. Un tema quindi interessante da discutere oggi con dei dati che siamo riusciti a raccogliere e a fornire, che possono essere uno spunto di riflessione importante per tutti. In studio studio con noi la dottoressa Luciana Baroni, presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, un'associazione di promozione sociale non profit che ha fondato nel 2000, specialista in neurologia, geriatria, gerontologia con un master universitario internazionale in nutrizione dietetica, autrice e curatrice di numerosi articoli e pubblicazioni concernenti salute, alimentazione e stile di vita e di numerosi libri. Buongiorno dottoressa, finalmente qui in studio in carne e ossa. Eh sì. Quale onore. Benvenuta. Grazie dell'invito e saluto i radioascoltatori. Ma a Cuore Denari Expo, ormai i nostri amici che ci seguono lo sanno bene, i medici vengono sempre accompagnati e infatti insieme a Luciana Baroni c'è anche Alberto Berto, cuoco, cultore di cucina naturale, cucina vegana e cucina crudista, che ha inventato moltissimi piatti di cui cura oltre al gusto anche l'effetto visivo, perché come si dice anche l'occhio vuole la sua parte. Qua noi oggi abbattiamo anche un po' il pregiudizio di chi pensa che mangiare crudista sia solo nutrirsi di sedano e carote e finisce tutto l'anno. E germoglietti. Altro che... Assolutamente no. Qua si fa un gran lavoro per l'occhio, ma anche appunto per la sostanza, direi. Assolutamente sì. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Benissimo. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire, raccontarci le vostre esperienze, se siete in procinto, avete voglia di cambiare il vostro stile alimentare, se lo avete già fatto, se volete essere accompagnati. Dottoressa Baroni, lei è vegana, ma è stata per qualche anno latto-ovo vegetariana. Lo anticipava il dottor Speciani quando ha fotografato un po' questo mondo, che è un mondo abbastanza variegato, e ha raccontato un po' le percentuali di donne e di uomini che hanno risposto al nostro questionario, raccontando che ce n'è una percentuale di vegani puri, vegani morbidi, latto-ovo vegetariani. Molti vegetariani però col tempo diventano vegani. Vorrei quindi invitare gli ascoltatori che sono in questa fase di passaggio a contattarci, anche se la puntata è dedicata a chi come il nostro testimonial vuole essere accompagnato e quindi da un'alimentazione che lui sta già calibrando fare poi un passo. Ma intanto, dottoressa Baroni, ci spiega la differenza tra queste due scelte? La dieta vegana si può considerare semplicemente una dieta vegetariana più stretta, o le differenze sono altre? Beh, noi dobbiamo pensare che secondo le linee guida dietetiche americane per la popolazione generale, quindi per una dieta onnivora dovrebbe essere costituita dall'81% di cibi vegetali. Quindi cereali, legumi, verdura, frutta fresca, frutta a guscio e semi oleaginosi, che sono essenzialmente le componenti di una dieta vegana. Quindi il nocciolo duro di qualunque dieta sana dovrebbe essere costituito dai cibi vegetali che costituiscono la dieta vegana. E quindi c'è una dieta vegana e tutte le altre sono, diciamo, dovrebbe essere la base varianti, su cui si inseriscono, sì, le varianti latto-ovo. Allora, chi vuol diventare latto-ovo vegetariano su questa base inserisce piccole quantità di latticine e uova, così come chi vuole rimanere onnivoro, sempre su una base forte di cibi vegetali, dovrebbe inserire piccole quantità di cibi animali. Ci sono infatti fior fiori di ricerche che dimostrano che una dieta ricca di alimenti vegetali svolge un ruolo protettivo per la salute, poiché riduce sensibilmente il rischio di alcune malattie, penso ad esempio quelle cardiovascolari. Senza quindi timore di smentita, possiamo dire, questo vale per tutti, che aumentare il consumo di verdura soprattutto e anche poi e frutta fa bene al cuore. Ma come la mettiamo con il gusto e soprattutto con i denari, e anche con una variabile che è preziosa quanto i denari, che è il tempo? Alberto. Io comincerei subito con una precisazione. Diciamo innanzitutto che siamo in Italia. Per tradizione noi abbiamo una dieta già in cui sono presenti già molto spesso cereali, verdure, legumi, quindi si tratta soltanto di andare a rispolverare una tradizione, andare a togliere quegli elementi in più che abbiamo aggiunto col tempo, con il benessere, con altre situazioni, e andare a riprendere le nostre origini. Per quanto riguarda la domanda, quindi attenente ai denari, soprattutto diciamo che la situazione è nettamente favorevole ad una dieta vegetariana, perché la maggior parte dei cibi animali che abbiamo inserito, a partire soprattutto dal dopoguerra, nella dieta di ciascuno di noi, hanno un peso fondamentale nella spesa, intesa proprio come costo di ogni giorno. Di conseguenza, eliminando questo, possiamo già avere un vantaggio in termini economici. Poi con clicca promo vedremo se possiamo dare conferma. Hai visto, si è messo vicino alla donna di denari, vedi? E mi guarda qua mentre risponde. Naturalmente, però condividiamo effettivamente quello che il nostro Berto stava dicendo, ma direi di andare oltre. Nicoletta, a proposito di tempo, è arrivato il momento di andare a conoscere il nostro candidato di oggi. Alessandro è un chirurgo, ha 51 anni e vuole passare da una dieta onnivora ad una vegetariana per due motivi. Primo è un motivo etico, nel senso che io sono un animalista convinto, mi soffro proprio quando vedo un animale che soffre, quindi figuriamoci se lo mangio, ecco. L'altra è una motivazione legata alla salute. Mi sono letto un po' di cose, una serie di dati che insomma dimostrano come le proteine animali siano fondamentalmente dannose per la salute se assunte in eccesso. Alessandro ha una passione particolare. Il volo. Volare! Io sono un pilota di elicotteri e mi piace tutto ciò che vola, quindi sono sempre stato affascinato dal cielo. Se avessi fatto il medico avrei fatto sicuramente il pilota. A casa di Alessandro è la moglie a dedicarsi alla spesa e nel loro carrello non può mancare i formaggi. E io sono un amante del parmigiano proprio in maniera smodata e so che non fa bene. Un'altra cosa che non manca mai nella nostra spesa è il vino. Se fosse un piatto sarebbe lo spaghetto al pomodoro, pomodoro e basilico. Per me è una delle cose più buone. Alessandro, sei il nostro candidato per la categoria dei vegetariani a Cuore Denari Expo. E Alessandro in linea con noi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito e saluto tutti i vostri gentili ospiti. Pronto, motivato? Emozionato? È vero, sì, emozionato perché è una scelta molto importante, veramente molto importante nella vita. Alessandro, sì. Ha subito delle richieste da fare ai nostri coach? Ma purtroppo quando si affronta qualcosa che ti cambia radicalmente, un modo di essere una parte importante della tua vita, c'è sempre chiaramente molte domande che vorresti fare. La prima cosa che mi viene in mente è una cosa pratica. Io purtroppo per il lavoro che faccio mi ritrovo a spesso a saltare il pranzo, arrivare alla sera che sono affamato, non ho grande possibilità di cucinarmi piatti elaborati, per cui anche perché in sala operatoria la vedo difficile. Esatto. E quando arrivo la sera però chiaramente ho fame. Si mangerebbe il tavolo e le sedie tutte insieme, in sostanza. Esatto. Apro il frigo e le prime cose che trovo fondamentalmente sono quelle che fanno più male, soprattutto i formaggi che a me piacciono molto e insomma devo cercare di fare delle scelte ponderate. Certo. Purtroppo il tempo è quello che è, soprattutto per fare certi piatti. Spero che non occorra una grande preparazione perché veramente sarebbe un problema. Ecco. Dobbiamo farle, se no dobbiamo prendere Alberto Berto e trasferirlo direttamente a casa. Che piacerebbe un po' a tutti. Quella di Alessandro e anche nella nostra, possibilmente. Esatto. Ha un costo modico, possiamo farlo. Eccoci qua. Cucina un po' per tutti. Allora, la questione tempo, peraltro, Nicoletta lo sa bene, è un po' l'aspetto che hanno, diciamo così, contestato tutti i nostri candidati al nostro progetto Cuore Denari Expo, no? Perché affidandoli ad un coach, chef o cuoco, immaginano tutti di doversi mettere a cucinare chissà quali manicaretti. Ma quindi, noi siamo Alberto, furbi perché ci abbiamo pensato. Alberto. Allora Alessandro, probabilmente viste poste fatte come salve le linee guida date dalla dottoressa Baroni in termini di calorie, indicazioni alimentari eccetera, probabilmente io come tecnico ho colto quella che è la sfida e quindi le domande che lei ha posto. Innanzitutto il tempo, quindi semplicità di esecuzione delle ricette e velocità nell'esecuzione delle stesse. Ingredienti semplici, un'equazione fondamentale da rispettare: cereali, legumi, verdura, frutta fresca, frutta a guscio. Queste sono le indicazioni di base. Di lì possiamo muoverci velocemente, economicamente e con gusto soprattutto. Dottoressa Baroni, poi rispondiamo anche a un ascoltatore che ci scrive: ma dite che quali sono i cereali, perché ne parlate ma le persone non sanno esattamente a che cosa vi riferite. Dottoressa Baroni, quando parlate di cereali parliamo di tutti i cereali in chicco, quindi riso, chiamiamoli per nome, riso, frumento, mais, avena, farro, forse me ne dimenticherò qualcuno, miglio, orzo, segale, kamut, quinoa, grano saraceno e amaranto. E i loro derivati, quindi tutte le farine con le quali si possono fare le paste e la pasta. Quindi la pasta asciutta. Ad Alessandro, la pasta asciutta, quindi la pasta con il pomodoro, gli spaghetti, due spaghettini col pomodorino fresco. Almeno lì gratificato sarà. Tra l'altro, se cotto c'è pure il licopene che ci fa bene, certo, anche rima. Allora, Alessandro, possiamo dire di stare tranquillo, in ottime mani, si fidi e si affidi, troverà tutta la indicazioni con i consigli, suggerimenti, sarà seguito passo passo dai suoi coach e lei naturalmente ci farà sapere, parlerà con gli ascoltatori, racconterà le sue difficoltà, le sue imprese, insomma. Sono ansioso di cominciare. Ah, addirittura. Benissimo. Sono molto motivato e contento. Cominciamo con il dare una pulita ai formaggi in frigorifero. Sì. Infatti, anche sì. Perché sai perché ti piacciono così tanto, vero? Perché contengono un oppioide che crea dipendenza, che si chiama casomorfina. Quindi se uno vuole essere libero da qualunque tipo di dipendenza, deve anche pensare a queste cose qua. Allora, 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. Noi salutiamo Alessandro, in bocca al lupo. Grazie, buon lavoro. Grazie Alessandro. Buon lavoro. Vi farò sapere il mio percorso. Grazie ancora. Ci dia notizie. Allora, dottoressa Baroni, a lei ad Alberto il compito di accompagnare Alessandro in questo passaggio, mettendolo nella condizione di organizzare e seguire una dieta equilibrata, vegetariana, vegana. Adesso voi lo indirizzerete, ma soprattutto vogliamo mettere le basi. Ci sono infatti dei criteri che è bene conoscere per impostare questo cambiamento in modo corretto e quindi fornire all'organismo tutto quello di cui ha bisogno. Questi principi sono riportati, li ho visti anche sul suo blog, sul sito della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana. Allora io li ripasserei un po' con lei, chiedendo a voi di farci una traduzione simultanea in concretese, quindi dall'informazione alla pratica nella vita quotidiana. Intanto consumare abbondanti quantità e varietà di cibi vegetali in modo da soddisfare il fabbisogno calorico individuale. Cosa significa, dottoressa Baroni? A quale varietà di cibi vegetali si riferisce per quanto riguarda la quantità? Ragioniamo a porzioni, ma traduciamo. Sì, questo è un criterio legato essenzialmente al buon senso. Sì. Cioè, qualunque dieta per essere equilibrata deve contenere il maggior numero possibile di cibi, quindi la maggior varietà possibile. Nel caso di una dieta vegetariana, una dieta equilibrata deve contenere cibi appartenenti a tutti i gruppi vegetali. Quindi li ricordiamo, sono i cereali, i cibi proteici, la verdura, la frutta secca e i grassi, in quantità sufficienti a soddisfare il fabbisogno calorico. E questo è un capire? Questo è un criterio, perché solitamente con una dieta vegetariana si può mangiare a sazietà e così si rispetta il fabbisogno calorico, nel senso che non c'è il rischio di eccedere in calorie se si utilizzano cibi non trasformati, quindi poco trasformati, perché il volume dei cibi vegetali conferisce sazietà impedendo di eccedere con l'assunzione delle calorie. Questo criterio base, che è il primo e che è comune a tutti i tipi di alimentazione, a tutte le diete, è in grado da solo di rendere sostanzialmente equilibrata la dieta. Vuol dire è in grado di fornire quasi tutti i nutrienti, quindi comprese le tanto invocate di carenza proteine, ferro e così via. Il nuovo piatto VEG è proprio un metodo che vuole suggerire appunto come combinare i vari cibi nell'arco di una giornata. Adesso è uscito il piatto VEG in gravidanza e allattamento, è già un libro e stiamo lavorando al sito, e stiamo lavorando al sito anche per il piatto VEG dell'adulto, che uscirà come libro a ottobre. e nel piatto veg vengono suggerite la quantità di porzioni di ogni gruppo da consumare nell'arco della giornata, dove per porzione si intende una quantità fissa di cibo. Ad esempio, una porzione di cereali sono 30 grammi, cioè una porzione di pasta sono 30 grammi. Io posso consumare tre porzioni, però cioè io se mangio un piatto di pasta consumo un piatto che contiene tre porzioni di cereali. Siamo soddisfatte, Deborah? Ma penso 30, di sì. 60, 90. Anche perché non è poi solo quello l'alimento no, esclusivo. No, era solo un esempio. Allora, il piatto veg lo descriveremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. Tra l'altro, tra i vari principi c'è quello anche di limitare, scegliere con attenzione i grassi vegetali. Sì. Il grasso vegetale nella nostra tradizione è l'olio di oliva. Noi avremo proprio nella seconda parte, nei mestieri del sommelier. Sommelier, perché qua è partita anche la gara della pronuncia, naturalmente. Questo non cambia la natura, la sostanza e l'importanza di questo lavoro, perché per quello che riguarda l'olio d'oliva è molto importante, esattamente come per tanti alimenti, che ci sia qualcuno che assaggi per noi per mettere sul mercato la miglior qualità. Questo ci piace molto. Come se ci chiamate e intervenite in diretta, lo state già facendo, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 per tutti i dubbi, per le vostre richieste, per farvi accompagnare, fare chiedere ai nostri esperti delle delucidazioni in merito. Adesso noi andiamo a sentire Le borsine, andiamo. Cuore e denari. Dai, usciamo a fare la spesa. Sì, dobbiamo ancora completare i criteri base della dieta vegetariana equilibrata. Stavamo stilando la lista delle raccomandazioni con Nicoletta e con i nostri ospiti. Nel frattempo ricordiamoci anche che fra un po' andremo a fare la spesa vegetariana. E allora, intanto 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire. Siete già in tanti candidati, anche il vostro intervento in diretta. Siete vegetariani o scegliete comunque una dieta povera di carne? Qualcuno dei vostri familiari o amici ha fatto questa scelta? Come vi organizzate per la spesa? Fate attenzione ad alcuni prodotti in particolare, pensate anche al risparmio, insomma, come vi organizzate? Il nostro protagonista Alessandro ci ha raccontato che, oltre al fatto che a fare la spesa solitamente sua moglie, nella loro cucina non mancano vino e formaggi, e questa abitudine un pochino tenterebbe di modificarla. Fra un po' le opportunità di risparmio insieme al nostro Luciano Mazzone, che intanto salutiamo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte. Ma vogliamo completare, Nicoletta, i criteri base per la dieta? Volevo solo lanciare, intanto i nostri ascoltatori ormai sanno che nello spazio tra le 11.45 e le 12 avranno modo di chiamare i nostri ascoltatori e i nostri esperti e parlare e confrontarsi con loro, ma intanto anticipiamo che naturalmente chiederemo alla dottoressa Baroni come assumere le quantità adeguate di calcio, vitamina D, quali sono le fonti vegetali di acidi grassi omega 3, e quindi anche questi sono aspetti importanti per definire il nostro profilo e le nostre scelte alimentari, in modo da arrivare ad una dieta equilibrata, senza dimenticarci della famosa vitamina B12. Mi sembra che su questa vitamina, più che delle raccomandazioni, ci sia un imperativo a tenerla sempre ai livelli ottimali. Di questo parleremo naturalmente. Vi do degli spunti, perché vedo dagli sms che siete molto interessati a questo aspetto, quindi dieta vegetariana, dieta vegana, ma cosa vuol dire? Allora, se io non posso assumere, sono tranquilla per le quantità di ferro, e che cosa succede per la vitamina B12, la dottoressa Baroni, con naturalmente i consigli di Alberto Berto, vi daranno tutte le indicazioni utili e necessarie. Ti dico anche che sui prezzi hanno cominciato i nostri ascoltatori a fare i loro commenti, mettendo a confronto il melone con la salsiccia. Il melone costa 3 euro, ci diceva un amico che ci scrive al 349-238-6666, la salsiccia 2, ma non è che un pasto possa essere composto esclusivamente da un alimento piuttosto che l'altro. Poi magari su questo ci andiamo. Mazzone, il nostro coach, volevi dire qualcosa? Stavo pensando che, ripensando a quello che ci aveva detto la dottoressa Baroni, che comunque il melone va mangiato. Può scegliere se mangiarsi anche la salsiccia o no, ecco, perché è logico che no, poi sì. Allora, il nostro coach per il risparmio, Luciano Mazzone, cuore denari, clicca promo pazzi per le offerte, ricordiamo, è un comparatore di prezzi e offerte della grande distribuzione, ci permette ogni settimana di individuare molte opportunità di risparmio. Oggi siamo andati a caccia di opportunità di risparmio per la platea dei vegetariani vegani. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che nella sezione speciale del nostro sito dedicata al progetto Cuore Denari Expo trovate per ogni categoria, insieme ai consigli di salute e ai menu, anche la lista dei prezzi e della spesa, e per ogni spesa la squadra di Clicca Promo ci aiuta ad individuare appunto il possibile risparmio. Allora Mazzone, quale considerazione ci ha portato sui prodotti preferiti dal nostro vegetariano e da sua moglie, da Alessandro? Formaggio e vino, prezzi formati in cui li troviamo, si trovano delle offerte su questi prodotti, è un mondo molto vario. Assolutamente sì, diciamo che fra i formaggi non mancano mai in promozione parmigiano, grana e mozzarella, a cui si vanno ad aggiungere spessissimo tutti i formaggi anche locali. Nei supermercati ormai è frequente trovare in offerta e non anche i formaggi del territorio. Il vino è una delle categorie merceologiche che negli ultimi anni è andata espandendosi moltissimo come presenza nei supermercati, ormai offrono l'intera varietà dal primo prezzo fino ai vini pregiati, e anche su questo spessissimo ci sono offerte del 20-30%. Certo. Allora, noi a questo punto dobbiamo anche lanciare la nostra consueta iniziativa rivolta ai nostri ascoltatori che magari sono proprio in questo momento al mercato o al supermercato. Se ci siete stati da poco e vi ricordate un prezzo, se proprio in questo momento magari con le cuffiette andate a fare la spesa e contestualmente ascoltate Radio 24, diventate inviati di Cuore e Denari. Allora, noi oggi abbiamo scelto per raccogliere i prezzi che trovate il mondo soia, visto che ci occupiamo di vegetariani e vegani. Ok, no, la dottoressa Baroni vedo che non è proprio come Alberto mai è più morbido. Lista. Perché dottoressa Baroni non le piace? No, perché non possiamo parlare di alimentazione vegetariana parlando di soia. La soia è un legume e va consumato in modo variato a rotazione con gli altri legumi. Certo. Quindi se noi pensiamo che la dieta vegetariana sia soia, partiamo già col piede sbagliato. Però la soia è compresa tra i legumi, parte degli ingredienti. Sopra. Ok. Allora, se scegliamo però il mondo soia per andare a fare una valutazione dei prezzi che troviamo in circolazione, quindi latte di soia, yogurt di soia. I germoglietti, c'è anche surgelato, ho scoperto, io non ci ho mai fatto caso, Luciano Mazzone. Sì, sì, è uno dei nuovi prodotti sul mercato, i baccelli di soia, addirittura già gli edamame direttamente, offerti anche da un'azienda italiana, devo dire. Ecco. È coltivata in Italia. Alberto? La soia, come diceva la dottoressa Baroni, può essere inserita nella dieta vegetariana, vanno rispettate le quantità, può avere anche delle controindicazioni alla fine se consumata in eccesso, ma come tutte, proteico. Esatto, come tante altre cose, per cui rispettiamo la varietà soprattutto. Ma l'indicazione per i nostri amici che stanno facendo la spesa o l'hanno fatta è: diventate inviati di questa puntata di Cuore Denari e raccontateci all'800 24 0024 il prezzo del mondo soia. Il latte di soia è un po' costoso, devo dire la verità, quantomeno rispetto a quello vaccino che si trova in commercio, soprattutto quando prodotto ovviamente a livello regionale. Io credo che al di sotto dell'euro e mezzo non si trovi nulla, e un buon prodotto viene considerato quello intorno ai 2 euro. Parlo di una busta da un litro, sì, Mazzone, confermo in pieno, una bevanda di soia, perché mio medico una volta mi ha detto: non si dice latte di soia, è bevanda di soia, il latte è un'altra cosa. È corretto anche questo utilizzo del gergo, vero? Bevanda vegetale. Mazzone, qualche prezzo? Ma allora, come si diceva, il latte di soia può bevanda di soia, l'abbiamo appena detto. Vedi che non è stato attento, gli abbiamo fatto troppi complimenti. Scusate, mi correggo. Dopo le madame, non mi ricordo come si chiama, edamame del germoglio di soia, sì. Si trova a prezzo pieno a circa 2,60 euro al litro, ma con le offerte capitano a volte sconti dell'ordine del 30 o anche 40%, per cui si scende intorno all'1,50 euro. Lo yogurt costicchia un po' di più, nel formato da 200 grammi per esempio si può trovare a 1,60 euro a prezzo pieno, 1,10 euro in promozione, quindi sempre un bel 30% di sconto, ma sicuramente per uno yogurt da 200 grammi è un prezzo abbastanza importante. Andiamo al resto della lista della spesa che abbiamo confezionato per i vegetariani. Allora andiamo un po' a capire intanto, sulla base delle ricette che Alberto Berto ci ha fornito, abbiamo stilato la nostra lista, complessivamente quanto può spendere Alessandro, che pian piano convertirà la sua alimentazione sulla base di questa lista che noi proporremo anche sul nostro sito, i prezzi più alti, i prezzi più bassi e quali opportunità di risparmio particolarmente interessanti abbiamo trovato questa settimana. Allora diciamo che è una lista molto lunga in cui abbondano frutta e verdura. Frutta e verdura sono una delle categorie che io preferisco perché si trovano frequentissimamente in offerta. La lista di questa settimana costerebbe a prezzo pieno 85 euro, ma si risparmia un bel 30-35% scendendo a 60, quindi in termini assoluti 25 euro, proprio approfittando delle offerte, per esempio su frutta e verdura, ma anche su legumi e cereali, certo, oppure sulla pasta e sul riso che sono presenti. Ecco, poi ricordiamo lista che voi monitorate la grande distribuzione. Se si potesse monitorare il mercato del sabato mattina con tutti i prodotti freschi, qua veramente troveremmo probabilmente una bella lista, forse ancora più conveniente, ma non è detto, perché quando arrivano proprio i prodotti, no, di stagione, certo, o magari quando si trovano quelli che non sono di stagione, ecco che la lista della spesa diventa più impegnativa. Esatto. Se compriamo le fragole a febbraio, come diciamo sempre. Diciamo anche che nei supermercati, ormai in quelli più piccoli, no, si trova la frutta e la verdura confezionata, che quindi ha dei limiti anche di scelta più stringenti. Nei supermercati medi o grandi si trova il prodotto sfuso, ognuno può scegliere da sé quale prendere e quale la quantità da portarsi a casa, quindi c'è una scelta che si avvicina molto a quella del mercato rionale. Cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Direi oppure che è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Sono già le 11:46, certo. Poi abbiamo anche la nostra candidata di settimana scorsa, chissà che cosa abbiamo. È successo. Abbiamo la dottoressa Baroni, Alberto Berto, che ci daranno delle indicazioni, ci racconteranno come hanno costruito questa nuova dieta, questo stile alimentare per il nostro Alessandro. Io sono certa che molti dei nostri ascoltatori andranno a sbirciare le ricette di Alberto. Noi l'abbiamo già fatto, abbiamo già preso nota. Mi è piaciuto in modo particolare perché spesso Alberto si crede che la cucina vegetariana e vegana richieda dei prodotti, degli alimenti un po' difficili da reperire o costosi o strani, per cui non si riesca, no, a farla con quello che abitualmente troviamo nel mercato rionale, in quello sotto caso al supermercato. Devo dire che le ricette di Alberto Berto sono assolutamente ottimo, alla portata di tutti, alla portata e di Deborah, praticamente potrebbero essere inserite anche nella dieta di chi non fa una scelta vegetariano vegana, ma approfitta di queste ricette così equilibrate per dare varietà al suo stile alimentare, e questo ci piace, vero Luciano Massone? Assolutamente sì, io ormai l'ho conquistato. Dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Voglio fare il pirata su Marte per un telegiornale spaziale. Voglio vivere sulla terra rossa cercando la scossa che non troverò. Sì, la canzone è quella che è così dedicata a tutti i nostri amici candidati a fare gli inviati di Cuore Denari Expo. Questa mattina vi abbiamo lanciato la sfida sui prodotti legati alla soia, il latte, yogurt, i germogli, tutto quello che volete. Che prezzi state trovando? Raccontateceli se volete guadagnarvi e portarvi a casa il kit dell'inviato. C'è lo ricordiamo? Sì, sì, c'è il cappellino, c'è la borsa, il taccuino di Radio 24, qualche penna, le foto di Nicoletta e Deborah, no? No, no, per carità, però la risparmiamo. C'è un'amica che l'ha ricevuta, l'ha fotografata e l'ha mandata. Per cui è vero quello che promettiamo, ecco, a patto che voi naturalmente andiate a caccia dei prezzi. In questa puntata vi invitiamo a chiamarci anche per sapere qualche cosa di più su questi prodotti che nell'immaginario collettivo, esatto, fanno parte della dieta vegetariana e vegana. Ne stavamo parlando con la dottoressa Baroni e Alberto Berto. Tofu, seitan, il miso, ci sono dei prodotti che uno magari prova e poi dice non mi avvicino più perché non mi piacciono. In realtà ci sono dei trucchetti, Alberto, ad esempio il tofu, che facciamo un domandone ai nostri ascoltatori: come si utilizza o come utilizzate il tofu? Come si ditecelo, come lo cucinate? E poi andremo a dare le risposte. E poi noi andremo un'altra domandina per i nostri inviati, sempre che un po' riesca a sondare le loro conoscenze su questa, no, cucina che noi suggeriamo per chi vuole, come per chi la sceglie, ma anche per alternare ai piatti della nostra cucina tradizionale per aggiungere quindi gusto, sapore, varietà, equilibrio alla nostra dieta. Ma io suggerirei una domanda molto semplice: perché vogliamo inserire tofu, tempeh, seitan eccetera in una dieta vegetariana? Partiamo prima dal concetto e dall'uso semplice di elementi vegetali pronti all'uso, come li troviamo sul mercato quotidianamente. Questa è la sfida per gli ascoltatori. Perché? Perché hai visto 800 24 00 24 alla dottoressa Baroni? Non facciamo fare una domanda, ma le chiederemo poi come fare per evitare quelle carenze che spesso le persone che riescono a ridurre progressivamente il contenuto di proteine animali nella loro dieta oppure l'abbandonano temono di cadere, quindi carenza di vitamina B12, il problema del ferro. Chiamateci, avrete tutte le risposte. Sì. No, stavo intanto monitorando gli ascoltatori che ci hanno inviato degli sms con i prezzi della bevanda di soia. C'è chi trova delle offerte a un prezzo anche ben inferiore rispetto al minimo che abbiamo dato, intorno all'€1,50 per l'offerta. C'è anche da dire, senza naturalmente fare nessun commento sui brand e sulle marche che ci state segnalando, che qualche volta il prezzo, ce lo diceva Alberto Berto a microfoni spenti, è dettato anche dalla percentuale, Berto, di soia che c'è nella bevanda. Esatto, confermo. Ecco, quindi diciamo che al di sopra Amazzone del 2 euro, perché la percentuale di soia è molto alta, andiamo a valutare certo. Anche le componenti. La raccomandazione che noi facciamo sempre, al di là del prezzo, è di leggere l'etichetta, le liste di ingredienti, le informazioni nutrizionali sono essenziali per orientarsi. Ma il nostro chef una percentuale adeguata ce la riesce a dare? Una percentuale media va intorno al 7-8%, una percentuale elevata molto buona per altri usi, quando vogliamo preparare dei formaggi, delle ricette particolari, della maionese di soia, 13-14%. Certo. Allora, abbiamo anche l'indagine di Trevalli GFK Aurisco, sì, che racconteremo dopo, magari ce la possiamo riservare per la seconda parte della nostra trasmissione, ma che non fotografa, so. Sì. In sintesi, se non riuscissimo poi ad andare nel dettaglio, ottimo, come che le abitudini degli italiani sono cambiate e sono sempre di più le persone che fanno questa scelta, riducono progressivamente la carne a favore di alimenti di origine vegetale, ma poi avremo dei dati interessanti che sono in parte già stati anticipati, sì, anche dal dottor Speciani, che ha fotografato, no, una situazione abbastanza simile. Allora andiamo? Allora, che cosa facciamo? Andiamo da Filippo, andiamo da Mirella che si candidano come inviati, o andiamo dalla nostra Linda? Andiamo dai nostri ascoltatori. Ottimo. E Linda la chiediamo di attendere, la teniamo un po' con noi. Esatto, eh? Vediamo poi che tipo di così la suspense per quello che le è successo nel corso di questa settimana, così è ancora più vivace. Allora, Filippo dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa voleva intanto raccontarci? Sì. Sì, intanto complimenti perché stai dando delle informazioni ottime che secondo me è doveroso ad oggi informare anche il pubblico di tutte queste novità alimentari. Chiamiamole novità perché chiamiamole per chi è un po' più resistente, diciamo, magari a queste, ma proprio novità direi che non lo sono neanche, no Filippo? Però sì, per quanto mi riguarda, se posso, io sono 4 anni sono diventato vegano, così dopo aver letto dei libri e mi hanno comunque contagiato, diciamo così. Però prima, fino a 2 anni fa, vedevo molto intorno, era proprio vista in maniera abbastanza negativa questa forma di alimentazione nuova, le ripeto, per me è antica, sì, però per la società è nuova. Mentre ora cosa nota, Filippo? Noto anche, per esempio, vedo con gioia che voi state dando informazioni sensate, interessanti per chi, sì, chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo. Allora, questo Filippo, è per sottolineare quanto lei ci ha detto, chiediamo alla dottoressa Baroni di darci un minuto un'altra notizia interessante. Ci sta pensando? Va bene, allora. No, magari poi potremmo chiedere alla dottoressa Baroni, sulla base del mondo che lei esplora ogni giorno, metteremo magari a confronto il suo commento con la nostra indagine, perché chi si avvicina al vegetarianesimo, si dice così, lo fa per quale ragione? La questione etica, alimentare, per quale tipo di ragione appunto si fa il cambiamento? A Mirella, inviata dei denari, diamo appuntamento dopo il nostro certo GR e noi vi aspettiamo a tra pochissimo. Cuore e denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno. Eccoci. eccoci qua, siete sempre in compagnia di Cuore Denari Expo. Parlando di questa Expo dedicata al nutrimento, non si possono ignorare, l'abbiamo vista prima citando un'indagine condotta da GFK per Trevalli, le nuove tendenze alimentari che vedono sempre più spesso diminuire il consumo di carne sulle nostre tavole. Il vegetarian vegano, direi, è la categoria protagonista della puntata di oggi. Abbiamo conosciuto Alessandro, che da oggi inizia il suo percorso, seguito dalla dottoressa Luciana Barone e da Alberto Berto. Intanto continuate ad andare sulla nostra pagina a compilare i nostri questionari, i nuovi profili vi attendono. 800 24 00 24 se invece volete intervenire. Ci state dando le vostre ricette sul tofu, adesso Alberto Berto vi dirà se fate le cose per bene. La dottoressa Baroni ha però sottolineato che non è necessario mangiare tofu, seitan, tempeh per essere vegetariani né vegani. Adesso completeremo naturalmente con la dottoressa Baroni l'approccio a questa dieta, che deve essere come tutte le diete equilibrata, e quindi la dottoressa Baroni risponderà ai vostri interventi, alle vostre richieste che potete fare al nostro numero verde superando la barriera rosa, oppure inviandocela al 349-238-6666. Deborah. Come sapete, osserviamo tutto il lavoro che orbita proprio intorno al mondo del cibo e dell'alimentazione. Ogni settimana a quest'ora andiamo a scoprire una di queste professioni e, come ormai gli affezionati del nostro spazio sanno bene, condividiamo questo percorso con il Sole 24 Ore Food 24, dove, se andate a collegarvi, trovate i contributi video che vi permetteranno di conoscere i protagonisti di questi interessantissimi mestieri. Oggi, Nicoletta, andremo a scoprire, lo faremo fra qualche istante, una professione molto affascinante. In realtà non è una sorpresa, perché abbiamo già svelato il mistero ad inizio trasmissione, riguarda l'olio. È un prodotto tanto importante per l'economia italiana, per la nostra dieta, per la nostra alimentazione, ed è tanto caro anche ai nostri ascoltatori. Ricordo ancora le tante telefonate nella puntata che gli abbiamo dedicato qualche tempo fa. Parleremo della figura del sommelier dell'olio, fra un po' saluteremo la nostra ospite, ma nel frattempo andiamo a salutare Linda, perché se no scappa. Linda, ciao! Sì. E lo fa anche di corsa, perché lei è la sportiva. Linda, buongiorno! Ciao. Buongiorno! Sei riuscita? Ho già corso, nel frattempo che mi avete fatto aspettare ho fatto la doccia. Brava, no, vabbè, allora brava. Tutta profumata, in accampatoio esatto. Con noi. Chi ha tempo non aspetti tempo, Linda. Allora, la settimana è andata molto bene, logicamente non ho potuto mangiare fuori di casa, perché questa tipologia di alimenti purtroppo non si trovano nei ristoranti. I piatti li ho trovati semplici da preparare, molto buoni, amici e compagno hanno molto apprezzato. Ah. Che si sia messa a cucinare. Esatto, l'unico neo è il tempo, perché ho dovuto fare delle scelte, o cucinare, o allenarmi, o stirare, dovevo scegliere. Hai rinunciato a stirare, immagino. Naturalmente, ma neanche si discute. Basta piegarle bene, quando le tiri fuori. E le camicie si mettono subito nell'appendino, punto, finita. Esatto. Non si guardano più. Ecco. Esatto, esatto. I miei coach però mi hanno già alleggerito i tempi con una tabella semplificata in certo. Privato. Ottimo. Linda, invece il portafoglio che dice? E il portafoglio dice che questa spesa non si può definire economica e veloce, perché le farine integrali e le bevande di riso, sono stata attenta, e di soia hanno comunque un costo maggiore rispetto alla mia alimentazione precedente. Sicuramente più lunga, semplicemente perché ancora devo memorizzare la posizione nel supermercato di ciò che mi interessa. Allora clicca promo, pazzi per le offerte, andiamo di coupon, Luciano. Esatto. Mazzone, mi raccomando. Esatto. Grazie, esatto. Grazie Linda, Linda, un grazie. Abbraccio. Ci risentiamo grazie presto. Grazie mille a voi, buona giornata, grazie. Allora, per smentire l'ascoltatore che ci scrive, finirà il programma senza sapere dove trovare le vitamine D, K, B12 e acido folico. No, per carità, andiamo dottoressa subito. Dottoressa Baroni, uno specchiettino. Beh, dove trovare la K e l'acido folico non c'è nessun problema. La K si trova solo nei cibi vegetali, in particolare nelle verdure, e l'acido folico è ricchissimo, abbondantemente presente in molti cibi vegetali. Le altre vitamine, allora, per la vitamina D, ahimè, non c'è dieta che tenga che fornisce la vitamina D. La vitamina D, la sua fonte naturale sarebbe la luce solare, ma con l'inquinamento, i filtri antisole, il fatto che comunque le persone vivono poco all'aria aperta, ormai tutta la popolazione è carente. Io lo vedo perché doso ormai di routine questa vitamina nei miei pazienti, sono tutti carenti. Quindi per garantire lo stato della vitamina D, purtroppo bisogna considerare l'assunzione di un integratore. Per quanto riguarda invece la vitamina B12 viene prodotta solo dai batteri, da alcuni batteri del terreno, quindi è presente nei cibi vegetali solo come fonte di contaminazione. Ovviamente con le misure igieniche a cui vanno sottoposti i cibi, questa vitamina viene allontanata. Allora? E quindi diciamo che la fonte naturale è sempre batterica, però ricavandola da un integratore da fonte batterica, che viene appunto prodotto con questi batteri che sintetizzano la vitamina. Dobbiamo pensare che i cibi animali siano una fonte naturale di B12, perché qui lo dico, ormai gli animali sono nutriti con mangimi addizionati. Quindi tutte le vitamine che si trovano nelle carni derivano da supplementazione dell'animale, non è una fonte naturale, ok? Va bene. Carissime, ecco il mio quesito. La dieta vegetariana è adatta anche a chi ha problemi di capelli radi? Beh, se uno ha problemi di capelli radi, ha un problema genetico, e non credo che ci siano studi che dimostrano che la dieta vegetariana fa diventare i capelli più folti. Dobbiamo cercare di stare un po' coi piedi per terra, cioè, non è che facciamo i miracoli. Sulla questione del ferro, invece, che è sempre molto gettonata, perché c'è l'equazione: non si consuma più carne, equivale automaticamente a perdere quantità di ferro in circolazione. Allora, il ferro è contenuto in quantità molto maggiore nei cibi vegetali. Il problema è che è un po' meno assimilabile, però è anche vero che eccessivi accumuli di ferro nell'organismo sono dannosi, perché costituiscono un fattore di rischio di malattie cardiovascolari, diabete e così via. Però soprattutto le donne in età fertile, l'assunzione variata di cibi vegetali garantisce le assunzioni di ferro necessarie. Se si eccede di latticini, invece, si rischia la carenza, perché il latte non contiene ferro e va a inibire l'assorbimento del ferro vegetale. Dunque, parliamo ormai in coppia. L'imbarazzo della scelta delle cose da fare. Possiamo o sentire la nostra inviata, che è Mirella, che aspetta da un po'. Mirellina da Bassano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Andata a fare la spesa per Cuore Denari. Brava. No, stamattina. Però innanzitutto volevo farvi complimenti. Siete superbe, stupende. E vi ascolto sempre ogni mattina. E Mirella, se lei adesso le mando una foto di Deborah abbronzata. Come prego? Lei non sa che splendore è Deborah. Già siete belle così. Pensi ancora di più. Pensi ancora di più. Abbronzata anche la dottoressa Baroni a proposito di vitamina D. Ma tu sei fare la vitamina D. Invece sei ambrata naturale, quindi sei bella. Allora, Mirella, ci dica un po'. Fuori con i prezzi che Luciano Mazzone impallidisce. Io di solito bevo da tanto tempo il latte, anzi, cioè è la bevanda di soia. Esatto. Ecco, e quindi da diversi anni, sia soia, avena, riso, mandorla, diciamo tutte le bevande adoro vegetali. Adoro quello di mandorla, ragione, sì. Mirella, sì. Sì, è molto dolce, però dai. Meglio, perché non si mette lo zucchero, quindi. Allora? No, assolutamente. Mirella, vada al dunque. Dunque, io cerco di cercare i prezzi convenienti. Nei supermercati, diciamo, abbastanza grandi, o ipermercati, la trovo a 99 centesimi. Soia bio. Soia bio. Sempre bio. Sempre bio, dice la dottoressa Baroni. Sempre bio la cosa. Non mi fido molto se non è bio. Grazie Mirella, il suo kit lo avrà Luciano Mazzone? Immagino sia il formato da mezzo litro ed ha un prezzo sostanzialmente in linea con quello che indicavamo. A prezzo pieno costerebbe 30-40 centesimi in più, quindi comunque la signora già risparmia. Qualche insegna della grande distribuzione un po' meno blasonata, chiamiamola così, in realtà secondo me ha questo prezzo anche per la confezione da un litro, però lì ritorniamo. La questione della percentuale di soia che c'è dentro, eccetera. Ottimo, grazie a Mirella. E noi andiamo a Manuela Mancino. Andiamo a sentire, avevi un'altra idea? No, proprio lei, da lei volevo andare. Il nostro mestiere del cibo di questa settimana, Manuela Mancino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Manuela, intanto per chi volesse vedere il suo viso può andare a collegarsi sul sito del Sole 24 Ore e vedere l'intervista che le ha realizzato Fernanda Roggero. Detto questo, noi la facciamo radiofonica. Manuela, ti possiamo definire un'assaggiatrice ufficiale di olio? Spiegaci bene qual è il tuo lavoro e qual è anche il percorso di formazione che ti ha portato a svolgerlo. Ok, sì, sono assaggiatrice di olio e anche sommelier dell'olio. Per diventare assaggiatore è necessario seguire un corso di identità fisiologica all'assaggio, al termine del quale viene rilasciato un esame, un attestato di idoneità. Viene poi fatto un corso di 20 sedute di assaggio che è propedeutico all'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli extravergini d'olive. E mentre per diventare sommelier dell'olio è necessario seguire il corso organizzato dalla Federazione Italiana dei Sommelier Olio, che ha una durata di 14 lezioni, al termine con un esame si diventa sommelier dell'olio. Si ha una certificazione naturalmente che attesta che siete diventati professionisti in questo campo. Nicoletta, però ci sono delle regole che naturalmente ci danno l'opportunità di distinguere, no? un buon olio dall'extravergine, da un prodotto scadente. Oltre a leggere l'etichetta, no, poi lo assaggiamo anche. Esatto. No, tra l'altro poi, Emanuele, una volta che avete assaggiato, cosa fate come per i sommelier del vino? Lo descrivete come un po' fruttato, rotondo? C'è tutta quella gamma di descrizioni molto affascinante legata al vino. Succede anche per l'olio? No, per l'olio è un po' diversa, a livello proprio gusto-olfattivo andiamo a prendere in considerazione tre aspetti, che è il fruttato, l'amaro e il piccante. Il fruttato è tutto ciò che è relativo al frutto oliva, quindi sono tutte le sensazioni vegetali, erbacee, di verdura, quindi sensazioni fresche. E poi all'assaggio si prendono in considerazione l'amaro e il piccante come sintomi di qualità di un olio extravergine, proprio perché sono indizio dei polifenoli, e si percepisce poi quella che è un po' la pastosità dell'olio in bocca, e in bocca però dell'olio non si può assolutamente valutare l'acidità. Mm-hmm. Emanuele, una volta che si è ottenuta la certificazione di cui ci parlavi prima, dove si va a lavorare? In quanti siete in Italia a svolgere un lavoro di questo tipo? Quanto si guadagna con questo lavoro? Raccontaci un po' anche questi aspetti che magari stuzzichiamo un po' anche ad avventurarsi in questo campo professionale e i nostri ascoltatori, se naturalmente hanno anche le carte in regola per poterla fare questa professione. Certo, allora gli sbocchi professionali sono diversi, cioè si può far parte innanzitutto di panel per assaggi ai fini di concorsi oppure delle guide di settore, oppure ancora presso i ristoranti, quindi stilare la classica carta degli oli, gastronomie locali che comunque abbiano una particolare attenzione all'extravergine, quindi appunto andare lì a selezionare degli oli in relazione a quello che è un po' il taglio di cucina. Oppure ancora si può lavorare come classico sommelier di oli, appunto, cioè la stessa figura del vino, però anziché andare a abbinare ad ogni portata un vino si abbina ovviamente, certo, l'olio. Olio. Oppure operare come consulente delle aziende, quindi andare ad esempio a definire il profilo sensoriale di un olio, di una gamma di oli dell'azienda, dopo averle ovviamente, certo, assaggiate. Manuela, grazie e complimenti per la tua attività, che ci sembra anche molto sofisticata. Il tuo assaggino quotidiano l'hai già fatto? Sì, sta benissimo tra l'altro. Grazie Emanuela, grazie. Mancino, sommelier dell'olio. Cuore e denari Expo. Abbiamo in linea per l'editoriale di questa puntata di Cuore Denari Expo un amico, grande di Cuore amico. Denari, grande amico, uno scrittore molto amato, sì, sempre in testa alle classifiche. Altro che. Andrea Vitali, ciao Andrea. Buongiorno, ciao. Ciao Andrea. Noi siamo sono qua. Pronto. Tu no, sei io pronto? Sono pronto, sì. Cosa hai combinato per noi oggi? È una rivisitazione della legge della conservazione della massa fisica. E va con bene, questo noi siamo pronti. Sì, esatto, in religioso silenzio ci mettiamo. Ditemi il via. Vai, via. La legge della conservazione della massa fisica, per quanto mi riguarda, non l'ha mica inventata Antoine Laurent de Lavoisier, ma è merito delle mie tre zie di campagna, E anziché ricorrere a criptiche formulazioni per dimostrare che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, fecero ricorso a una dimostrazione pratica. Correva l'anno 1943, mio nonno, loro padre, giaceva a letto ammalato. Il medico condotto, poveretto, cercava di curarlo con la scarna farmacopea dell'epoca. Buoni consigli soprattutto, e primo sugli altri, curare l'alimentazione, dare al fisico le sostanze necessarie da cui trarre l'energia per sconfiggere la malattia. Fu della più anziana l'idea di arricchire la dieta del genitore con l'aggiunta di una sciccheria che da tempo latitava sulla loro tavola. Un miracoloso panino di farina bianca di cui avrebbero testato le virtù terapeutiche con una prima somministrazione. Fu lei stessa che l'andò ad acquistare al crepuscolo di una mattina di settembre, passandolo poi quasi furtivamente al genitore allettato. L'uomo lo prese con grazia, ma dedito al sacrificio, una volta solo riflette che forse più che a lui avrebbe giovato in termini di energia a qualcuna delle sue figlie, a quella che nel suo giudizio spendeva più energie di quelle che produceva, la seconda, costretta allo sfibrante lavoro della filanda e a un continuo salire e scendere dalla frazione dove abitava al centro. Era la seconda figlia e a lei passò il fenomenale panino, raccomandandole di consumarlo in solitudine e suggendone tutte le meravigliose qualità senza sprecarne alcuna. Obbedì la seconda, da buona figlia, obbedì, ma nascose il panino in una tasca del scossà, ritenendo in piena umiltà e coscienza che più di lei l'altra sorella, la terza, quella che badava a stalla e campagna, che si alzava prima del levar del sole e tornava ben oltre il tramonto, più di lei insomma, la terza tra le sorelle, avesse bisogno di qualcosa che desse in più alle sue pur inesauribili energie. E le passò il panino la mattina seguente, quando ancora il buio incombeva sul mondo e gli uccelli non sospettavano l'alba, fingendo di incontrarla per caso nella cucina. La terza, la campagnola, non osò rifiutare il dono, ma non osò nemmeno consumarlo, sembrando pure a lei di rubarlo alla tavola di chi ne avesse più bisogno. E avendo compreso il giro che il miracoloso panino aveva fatto, opinò tra sé e sensibilmente che forse dietro quel periplo si celava un segno celeste, l'invito in sperare in ben altri prodigi di fattura non certamente umana. Così il panino, perduta ogni aura miracolosa, divenne una semplice esca per la gola e tornò tra le mani di colei che per prima l'ebbe, la prima tra le zie, colei che l'acquistò e che tra le poche debolezze aveva proprio quella d'essere golosa. Superata la meraviglia di quel ritorno inaspettato, la prima zia volle riflettere e intanto ricoverò il panino nella madia di casa. Vuoi che se ne dimenticò, vuoi che la riflessione circa la quale non ho notizie si prese giorni e giorni, quando la prima zia ebbe deciso il destino del panino, costui si era trasformato secondo la legge della conservazione della massa fisica. Scuro, duro come un mattone, con chiazze fungine qua e là, era probabilmente diventato tossico per l'umano, ma non per le galline. Finì infatti a pezzi e pezzettini nel pastone dei bipedi che se lo consumarono allegramente chicchiriccando alla gustosa novità. Andrea, dobbiamo concludere purtroppo, ma la conclusione, come nel costume di Cuore Denari nel nostro progetto, esatto, la mettiamo su Facebook insieme ai consigli di Alberto, che a cui non siamo riusciti a far parlare del tofu, ma che inviteremo prossimamente, magari nella prossima puntata di Cuore Denari. Grazie a tutti, grazie a tutti, a domani.